Capitolo 4. Una sera, al tramonto, Jane Andrew, Gilbert Blythe e Anna Shirley si attardavano presso uno steccato all'ombra dei rami d'abete che ondeggiavano dolcemente. Là, dove una scorciatoia nei boschi, nota come il sentiero delle betulle, incrociava la strada principale. Jane aveva trascorso tutto il pomeriggio con Anna, che l'aveva riaccompagnata a casa per un tratto di strada. Allo steccato avevano incontrato Gilbert e ora tutti e tre parlavano della fatidica giornata dell'indomani. L'indomani infatti era il 1° settembre e cominciavano le scuole. Jane sarebbe andata a Newbridge e Gilbert a White Sands. «Avete entrambi un vantaggio su di me», sospirò Anna. «Insegnerete a bambini che non vi conoscono, mentre io dovrò far lezione ai miei vecchi compagni di scuola. E la signora Linde dice che ha paura che non mi rispetteranno come farebbero con un'estranea, a meno che io non sia molto severa fin dal principio. Ma io non credo che una maestra debba essere severa. Oh, mi sembra che sia una tale responsabilità». «Oh, penso che ce la caveremo benissimo», disse Jane tranquillamente. Jane non era turbata da aspirazioni di rappresentare per i suoi allievi uno stimolo al meglio. Intendeva guadagnarsi onestamente lo stipendio, rendersi gradita agli amministratori e far scrivere il proprio nome sull'albo d'onore dell'ispettore scolastico. Altre ambizioni Jane non ne aveva. «La cosa più importante è mantenere la disciplina, e per ottenerla un insegnante deve essere un po' severo. Se i miei scolari non mi obbediranno, li punirò». «Come?» «Ah, darò loro una buona dose di sferzate, naturalmente». «Oh, Jane, non lo devi fare!» gridò Anna scandalizzata. «Jane, non puoi farlo!» «Posso e debbo farlo, se lo meriteranno!» ribatté Jane con fare deciso. «Non riusciresti mai ad adoperare la sferza con un bambino», osservò Anna con altrettanta decisione. «Non ci credo affatto. La signora Stacy non ha mai picchiato nessuno di noi, eppure manteneva una disciplina perfetta. Mentre con il signor Phillips, che aveva sempre la sferza in mano, di disciplina non si parlava neanche. No, no, se non dovessi riuscire a farcela senza picchiarli, penso che dovrei rinunciare a insegnare». «Esistono altri modi per riuscirvi. Cercherò di guadagnarmi l'affetto dei miei alunni e allora saranno loro a desiderare di fare quello che chiederò loro». «Beh, e se invece non lo desiderano?» chiese Jane. «Non li picchierò in nessun caso. Sono sicura che non gli farebbe alcun bene. Oh, ti prego, Jane, cara, non alzare mai le mani sui tuoi ragazzi, qualunque cosa facciano». «Tu che ne pensi, Gilbert?» chiese Jane. «Non credi che a certi bambini faccia bene ogni tanto una buona dose di vergate? E tu non credi che sia una cosa barbara, crudele, picchiare un bambino? Qualunque bambino?» esclamò Anna arrossendo per la veemenza delle proprie convinzioni. «Beh», intervenne Gilbert con lentezza, diviso tra le sue reali convinzioni e il desiderio di essere all'altezza dell'ideale di Anna, «ci sono alcune osservazioni da fare. In entrambi i casi, non credo che si debba mai esagerare nel picchiare un bambino. Ritengo, come hai detto tu, Anna, che esistano altri modi per imporre la disciplina e che le punizioni corporali debbano essere l'ultima cosa a cui ricorrere. Ma, d'altro canto, come dice Jane, credo che a volte possa esservi un certo tipo di bambino che non intende altre ragioni e che, per farla corta, ha bisogno di una buona lezione, perché questo può fargli persino del bene. Mi atterrò a questa norma, ricorrere ai castighi corporali come ultima risorsa». Gilbert, dopo aver cercato così di non scontentare nessuna delle due parti in causa, riuscì, come avviene di solito e assai giustamente, a dispiacere entrambe. Jane scosse la testa. «Picchierò i miei scolari quando sono cattivi. È la maniera più spiccia e più semplice per convincerli». «Io non picchierò mai un bambino», ripeté convinta Anna, schioccando uno sguardo a Gilbert molto deluso. «Sono sicura che non è né giusto né necessario». «E se un ragazzo ti risponde male quando gli dici di fare qualcosa?» chiese Jane. «Lo farai restare in classe, finita la lezione, e gli parlerai con gentilezza e fermezza», replicò Anna. «Ognuno di noi ha dei lati buoni, se si è capace di trovarli. È dovere di un insegnante trovarli e svilupparli. Ecco quel che si rammentava sempre il nostro professore di pedagogia della Queen's Academy. Credi forse di poter trovare il lato buono di un ragazzo a suon di vergate? È molto più importante esercitare la giusta influenza su di un ragazzo, più importante perfino dell'ortografia», diceva il professor Rennie. Ma l'ispettore li esamina proprio in ortografia, bada bene, e non darà a loro dei buoni voti se non raggiungono il livello richiesto, protestò Jane. Preferisco essere amata dai miei allievi, essere circondata negli anni a venire da loro come una persona che li ha realmente aiutati, piuttosto che comparire sull'albo d'onore, dichiarò Anna con decisione. Vuoi dire che non punirai affatto i ragazzi se si comportano male? Chiese Gilbert. Oh no, credo che talvolta vi sarò costretta, anche se detesto l'idea, ma si possono mettere nell'angolino, farli restare in piedi un certo tempo o assegnar loro un compito supplementare, che so, fare un tema, tradurre dei versi. Immagino che non punirai le ragazzine facendole sedere a fianco dei ragazzi, suggerì Jane con aria maliziosa. Gilbert e Anna si guardarono e sorrisero divertiti. Una volta, anni addietro, Anna era stata fatta sedere per castigo accanto a Gilbert e tristi e deplorevoli erano state le conseguenze di questo fatto. Beh, il tempo dirà chi di noi ha ragione, fece Jane filosoficamente mentre si lasciavano. Anna, per tornare a Green Gables, prese il sentiero delle betulle, ombroso, frusciante per lo stormire degli alberi, profumato dall'aroma delle felci, poi la valle delle violette e infine rasentò lo stagno dei salici, dove la luce e l'ombra si baciavano sotto gli abeti, e scese giù per il viale degli innamorati, tutti i luoghi che lei e Diana avevano battezzato così tanti anni prima. Camminava lentamente, godendo la dolcezza del bosco e dei campi e lo stellato crepuscolo d'estate, e pensando seriamente ai nuovi compiti che l'attendevano l'indomani. Quando arrivò al cortile di Green Gables, la voce forte e decisa della signora Linde risuonò nell'aria dalla finestra aperta della cucina. «Sta a vedere che la signora Linde è venuta a darmi buoni consigli per domani», pensò Anna con una smorfia. Ma io non entrerò in casa, i suoi consigli sono come il pepe, ottimi in piccola quantità, ma caustici nelle dosi massicce che lei propina. Me ne andrò invece a fare una chiacchieratina con il signor Harrison. Non era la prima volta che Anna andava a fare una chiacchieratina con il signor Harrison, dopo la ben nota vicenda della mucca Jersey. C'era stata parecchie sere e il signor Harrison e lei erano diventati ottimi amici, anche se vi erano momenti in cui Anna trovava la franchezza di cui lui si vantava piuttosto stucchevole. Ginger continuava a considerarla sempre con sospetto e non mancava mai di salutarla sarcastico con il suo «mocciosa dai capelli rossi». Il signor Harrison aveva cercato invano di fargli perdere quella brutta abitudine, balzando su tutto eccitato ogni volta che vedeva Anna avvicinarsi ed esclamando «Oh, bontà divina! Ecco di nuovo quella graziosa ragazza!» o qualche altra frase ugualmente lusinghiera, ma Ginger indovinava i suoi piani e se ne faceva beffe. Anna non avrebbe mai indovinato quanti complimenti le faceva il signor Harrison quando non c'era. In sua presenza, tuttavia, non era poi così prodigo. «Beh, ho l'impressione che lei se ne sia andata in giro per i boschi a provvedersi una scorta di verghe per domani, eh?» Fu il saluto quando Anna comparve sui gradini della veranda. «Oh, no, davvero!» replicò Anna, rannuvolandosi in viso. «Era davvero un ottimo bersaglio per gli scherzi, perché prendeva sempre tutto sul serio. Non userò mai una verga nella mia scuola, signor Harrison. Naturalmente mi occorrerà una bacchetta, ma me ne servirò soltanto per indicare quanto avrò scritto sulla lavagna, ecco tutto.» «Oh, allora intende usare la cinghia? Beh, non lo so, ma credo che abbia ragione. La verga fa più male sul momento, ma la cinghia brucia più a lungo, questo è il fatto.» «Non userò nemmeno la cinghia! Non ho intenzione di picchiare i miei scolari!» «Bontà divina!» esclamò il signor Harrison con vero stupore. «E come pensa di mantenere la disciplina, allora?» «Con l'affetto, signor Harrison.» «Ah, non funziona, Anna, non funziona proprio. Chi risparmia le botte vizia il bambino. Quando andavo a scuola io, il maestro mi picchiava regolarmente ogni giorno, perché diceva che se non stavo facendo qualche malestro, di certo l'avevo in mente.» «Oh, i metodi sono cambiati da quando andava a scuola lei, signor Harrison.» «Ma la natura umana no. Mi stia a sentire, non riuscirà a governare questi piccini a meno di non tenere la bacchetta a portata di mano. È impossibile altrimenti.» «Beh, voglio prima provare a modo mio», disse Anna, che era dotata di una meravigliosa forza di volontà ed era propensa a difendere con molta tenacia le sue idee. «Lei è ben caparbia, mi sa», fu il commento del signor Harrison. «Beh, si vedrà. Un giorno, quando le salterà la mosca al naso, e alla gente con i capelli come i suoi è molto probabile che la mosca salti al naso prima o poi. Allora dimenticherà tutti i suoi bei propositi e gliene darà di santa ragione a qualcuno di loro. È troppo giovane per fare l'insegnante, in ogni caso troppo giovane e inesperta. Tutto sommato, Anna quella sera andò a letto di umore piuttosto nero. Dormì male e a colazione il mattino dopo era così pallida e accigliata che Marilla si preoccupò e insistette per farle prendere una tazza di corroborante tè allo zenzero. Anna la sorseggiò lentamente, per quanto non riuscisse a immaginare che bene le potesse fare il tè allo zenzero. Fosse stata una pozione magica tale da conferirle età ed esperienza, Anna ne avrebbe inghiottito un quarto di litro senza fiatare. «Oh, Marilla! E se non ce la faccio?» «Sarà difficile che tu faccia fiasco completo in un solo giorno, e di giorni a venire ce ne sono parecchi», rispose Marilla. «Il guaio con te, Anna, è che ti aspetti di insegnare a quei bambini tutto lo scibile e di guarirli sull'istante di ogni loro difetto, e se non ci riesci subito, pensi di non farcela». Capitolo 5. Quando Anna arrivò a scuola quella mattina, per la prima volta in vita sua, aveva percorso il sentiero delle betulle cieca e sorda alle sue bellezze. Tutto era quiete e tranquillità. L'insegnante che l'aveva preceduta aveva abituato i ragazzi a farsi trovare i loro posti al suo arrivo e Anna, entrata in classe, si trovò di fronte file ordinate di visi splendenti del mattino, di occhi acuti e indagatori. Appese il cappello e affrontò subito gli scolari sperando di non apparire così spaventata e inesperta come si sentiva e che essi non si accorgessero di quanto stava tremando. La sera prima era rimasta alzata fino a mezzanotte per scrivere un discorsetto che si proponeva di tenere ai ragazzi all'apertura della scuola. L'aveva coscienziosamente letto e riletto e corretto e poi lo aveva imparato a memoria. Era un bel discorso e conteneva molte buone idee, specialmente riguardo all'aiuto reciproco e al perseguire con zelo le vie del sapere. L'unico guaio è che adesso non ne ricordava neanche una parola. Dopo quello che le parve un anno, ed erano in realtà circa 10 secondi, disse a bassa voce «Prendete la Bibbia, per favore», e si lasciò cadere senza fiato sulla sedia, al riparo dal fruscio e dallo sbattere di banchi che ne seguì. Mentre i bambini leggevano i loro versi, Anna riassestò il proprio precario equilibrio ed esaminò quello schieramento di piccoli pellegrini in viaggio verso la terra promessa degli adulti. La maggior parte di loro naturalmente le era ben nota, i suoi compagni di scuola avevano dato l'esame finale l'anno precedente e gli altri erano stati tutti a scuola con lei, a eccezione di quelli che iniziavano ora la prima classe e di 10 nuovi venuti da Avonlea. Anna in cuor suo provava più interesse per questi 10 che per coloro le cui possibilità le erano già ben note. A dir la verità potevano essere ragazzi comuni come gli altri, ma d'altro canto poteva celarsi un genio tra di loro. Era un'idea eccitante. Seduto tutto solo a un banco d'angolo c'era Anthony Pye. Aveva un visetto scuro, imbronciato e fissava Anna con un'espressione ostile negli occhi neri. Anna decise all'istante che si sarebbe conquistata l'affetto del ragazzo e avrebbe totalmente sgominato la famiglia Pye. All'altro capo dell'aula sedeva un ragazzo sconosciuto, insieme ad Artie Sloane, un tipino allegro, con il nasino all'insù, un visino cosparso di lentiggini e dei grandi occhi celesti orlati da ciglia bianchicce. Probabilmente era il ragazzo Donnell, e se la somiglianza valeva qualcosa, sua sorella sedeva dall'altro lato dell'aula, accanto a Mary Bell. Anna si chiese che sorta di madre avesse la bambina per mandarla a scuola vestita com'era. Indossava un abito di seta di un rosa slavato adorno di una quantità di gale di cotone, dalle scarpe sudice di capretto bianco e calze di seta. I capelli biondo rossicci erano acconciati in innumerevoli ricciolini crespi e poco naturali, sormontati da un fiocco sgargiante di nastro rosa più grande della sua testa. A giudicare dall'espressione era molto compiuta del proprio aspetto. Quel cosino pallido, con i capelli fulvi che le ricadevano in morbide onde sulle spalle, doveva essere, pensò, Annetta Bell, i cui genitori avevano già fatto parte del distretto scolastico di Newbridge, ma da quando avevano cambiato casa, trasferendosi 50 metri a nord della vecchia, rientravano ora in quello di Avonlea. Le tre ragazzine slavate, ammucchiate in un banco, erano certamente le Cotton, e non v'era dubbio che quella piccola bellezza con i lunghi riccioli bruni e gli occhi nocciola, che era intenta a lanciare sguardi civettuoli a Jack Gillis al di sopra della sua Bibbia, fosse Prilly Rogerson, il cui padre aveva ripreso moglie da poco, facendo così ritornare a casa Prilly, la quale fino ad allora aveva vissuto con la nonna, a Grafton. Una ragazza alta, un po' impacciata in uno degli ultimi banchi, che pareva tutta mani e piedi, Anna non riuscì a tutta prima a individuarla, ma poi scoprì che si chiamava Barbara Shaw. E che era venuta ad abitare con una zia ad Avonlea. Scoprì inoltre che, quando Barbara riusciva a percorrere il passaggio tra i banchi senza inciampare nei piedi, proprio in quelli di qualcun altro, gli scolari di Avonlea scrivevano questo fatto insolito sul muro del portico, per eternarne la memoria. Quando però gli occhi di Anna incontrarono quelli del ragazzo che sedeva nel primo banco di fronte alla cattedra, si sentì percorrere da uno strano brivido, come se avesse trovato il genio che cercava. Sapeva che doveva trattarsi di Paul Irving e che, una volta tanto, la signora Linde aveva avuto ragione quando aveva profetizzato che sarebbe stato diverso dagli altri ragazzi di Avonlea. Anzi, Anna si accorse che era diverso anche dagli altri bambini, di qualsiasi luogo essi fossero, e che da quegli occhi azzurro cupo, che la osservavano con tanta attenzione, traspariva uno spirito impercettibilmente affine al suo. Sapeva che Paul aveva 10 anni, ma non ne dimostrava più di 8. Aveva il più bel visino che l'avesse mai visto in un bambino, lineamenti di una delicatezza e di una perfezione squisite, incorniciati da un'aureola di riccioli castani. La bocca era deliziosa, le labbra piene senza essere sporgenti, color cremisi, che appena si toccavano si incurvavano in 2 angolini ben modellati, dove poco mancava si formassero 2 fossette. Aveva un'espressione seria, grave, meditativa, come se la sua anima fosse molto più vecchia del corpo. Ma quando Anna gli sorrise dolcemente, tale espressione si tramutò di colpo in un sorriso di risposta che parve illuminare tutto il suo essere, come se dentro di lui si fosse all'improvviso accesa una fiamma che lo irradiava da capo a piedi. E il bello era che tutto ciò avveniva in modo involontario, non prodotto da alcuno sforzo esterno o da un motivo, ma rappresentava semplicemente il balenare di una personalità segreta, rara, amabile e dolce. Quel rapido scambio di sorrisi dichiarò Anna e Paul amici per sempre, senza che tra di loro fosse stata scambiata neppure una parola. La giornata trascorse come in un sogno. Anna in seguito non riuscì mai a ricordare ogni cosa con chiarezza. Pareva che non fosse lei a tenere la lezione, ma qualcun altro. Ascoltò gli scolari delle varie classi, corresse esercizi di matematica ed esaminò quaderni come un automa. I ragazzi si comportarono piuttosto bene, vi furono solo 2 casi di indisciplina. Morley Andrew venne colto nell'atto di guidare una coppia di grilli ammaestrati nei corridoi tra i banchi. Anna ordinò a Morley di restarsene in piedi sulla pedana per 1 ora, e cosa che colpì molto più nell'intimo Morley, gli confiscò i grilli, li mise in una scatola e al ritorno dalla scuola li liberò nella Valle delle Violette. Ma Morley rimase convinto, allora e per sempre, che ella se li fosse portati a casa e li avesse tenuti per suo personale privato divertimento. L'altro reo fu Anthony Pye, che versò le ultime gocce d'acqua della sua borraccia nel collo di Aurelia Clay. Anna mise Anthony nell'angolino e gli spiegò come si supponeva si comportassero i gentiluomini, ammonendolo che mai versavano acqua nel collo delle signore. Voleva, gli disse, che tutti i suoi ragazzi fossero dei gentiluomini. La sua breve conferenza fu molto gentile e commovente, ma disgraziatamente Anthony restò del tutto imperturbabile. L'ascoltò in silenzio, senza mutare la sua espressione scontrosa, e nell'uscire fischiettò ostentatamente con aria sprezzante. Anna sospirò, ma poi si rallegrò tutta, ricordando che guadagnarsi l'affetto di uno dei Pai non era impresa da un giorno come la fondazione di Roma. Il fatto vi era da dubitare che alcuno dei pai provasse un sentimento simile all'affetto, di modo che fosse possibile guadagnarselo, ma Anna si riprometteva grandi cose da Anthony, che a vederlo dava l'idea di essere un ragazzo garbato se si fosse riusciti a superare quella sua scontrosità. Quando le lezioni terminarono e i bambini se ne furono andati via, Anna si abbandonò stancamente sulla sedia. Le doleva la testa e si sentiva piuttosto scoraggiata. Non c'era motivo di sentirsi scoraggiate, giacché non era accaduto nulla di terribile, ma Anna era molto stanca e incline a pensare che non sarebbe mai riuscita ad amare l'insegnamento. E che cosa tremenda dover fare una cosa che non si ama per, beh, diciamo 40 anni. Anna non sapeva decidere se sfogarsi a piangere lì, subito, o aspettare di essere al sicuro a casa nella sua stanzetta bianca. Prima che si fosse decisa, si udì un ticchettio di tacchi e un fruscio di seta sul pavimento del portico e Anna si trovò di fronte a una signora, il cui aspetto le ricordò un'osservazione critica che il signor Harrison aveva fatto di recente a proposito di una donna vistosamente elegante che aveva visto in un negozio di Charlottetown. Sembrava una collisione di prua tra un figurino e un incubo. La nuova venuta era sontuosamente inguainata in un abito estivo di seta azzurro pallido, pieno di sbuffi, di gale e di crespe ovunque. Ovunque sbuffi, gale e crespe potessero essere applicati. La sua testa era sormontata da un enorme cappello bianco di chiffon, adorno di tre lunghe ma piuttosto rade piume di struzzo. Un velo di chiffon rosa, punteggiato a profusione di enormi punti neri, le pendeva come una balza dal bordo del cappello e ondeggiava in due aeree strisce alle sue spalle. Sfoggiava il maggior numero di gioie che fosse possibile ammucchiare su una donna piccola di statura, mentre da tutta la sua persona emanava un forte sentore di profumo. «Sono la signora Donnell, la moglie di H.B. Donnell», annunciò la visione, «e sono venuta a trovarla per una cosa che Clarice Almira mi ha detto oggi, venendo a casa per pranzo. È una cosa che mi ha terribilmente seccata». «Mi dispiace», balbettò Anna, cercando invano di ricordare qualche incidente del mattino relativo ai bambini Donnell. «Clarice Almira mi ha detto che lei pronunciava il nostro nome Donnell con l'accento sulla O. Ora, signorina Shirley, la pronuncia corretta del nostro nome è Donnell con l'accento sull'ultima sillaba. Spero che lo ricorderà per l'avvenire». «Farò del mio meglio», ansimò Anna, ricacciando indietro una gran voglia di ridere. «So per esperienza che è molto sgradevole vedere il proprio nome scritto in maniera errata e immagino che deve essere ancora peggio sentirlo pronunciare scorrettamente». «Certo che lo è. E Clarice Almira mi ha inoltre informato che lei ha chiamato mio figlio Jacob». «Mi ha detto di chiamarsi Jacob?» protestò Anna. «Avrei dovuto prevederlo», disse la signora Donnell, con un tono che lasciava intendere che non ci si poteva aspettare gratitudine dai bambini in quest'età degenerata. «Quel ragazzo ha gusti così plebei, signorina Shirley. Quando è nato avrei dovuto chiamarlo St. Clair. È un nome così aristocratico, vero? Ma suo padre insistette perché fosse chiamato Jacob come suo zio. Acconsentì, visto e considerato che lo zio Jacob era un vecchio scapolo ricco. E lo crederebbe, signorina Shirley, quando il povero incosciente ebbe compiuto 5 anni, ecco che lo zio Jacob si sposa sul serio e ora ha 3 figli suoi. Ha mai sentito di una ingratitudine simile? Nel momento in cui arrivò l'invito al matrimonio, già che ebbe l'insolenza di mandarci l'invito, signorina Shirley, io dissi, è finita con gli Jacob, grazie mille. Da quel giorno ho chiamato mio figlio St. Clair e St. Clair sono decisa a farlo chiamare. Suo padre, testardo com'è, continua a chiamarlo Jacob e anche il ragazzo manifesta una incomprensibile predilezione per quel nome plebeo. Ma St. Clair, St. Clair resterà. Vuole farmi la cortesia di ricordarlo, signorina Shirley, per favore? Grazie. L'ho detto a Clarice Almira che ero sicura che si trattava soltanto di un equivoco e che una parola avrebbe sistemato tutto. Quindi Donnell con l'accento sull'ultima sillaba e St. Clair, niente Jacob. Per nessun motivo, se lo ricorderà, tante grazie. Quando la signora Donnell fu scomparsa in un turbinio di veli, Anna chiuse a chiave la porta della scuola e andò a casa. A Ai piedi della collina incontrò Paul Irving accanto al sentiero delle betulle. Egli le tese un mazzo di quelle delicate e bianche orchidee selvagge che i bambini di Avonlea chiamavano gigli del riso. «Per piacere, signorina maestra, ho trovato questi nel campo del signor Wright», le disse timidamente, «e sono tornato per darglieli perché ho pensato che fosse il tipo di persona a cui piacciono, perché...» alzò i begli occhi grandi. «Lei mi è simpatica, signorina maestra». «Oh, che tesoro!» disse Anna prendendo i fiori profumati. Come se le parole di Paul avessero agito per incanto, scoraggiamento e stanchezza l'abbandonarono e la speranza le sbocciò in cuore come l'acqua sgorga da una fontana. Percorse il sentiero delle betulle con piede leggero, avvolta dalla fragranza delle orchidee, come da una benedizione. «Beh, com'è andata?» si informò Marilla. «Chiedimelo tra un mese e forse sarò in grado di risponderti. Ora non posso, non lo so nemmeno io, è passato troppo poco tempo. Mi sento come se qualcuno avesse rimescolato i miei pensieri fino a farli diventare una massa spessa e fangosa. L'unica cosa di cui sono veramente certa di oggi è che ho insegnato a Cliff Wright che ha e ha. Non lo sapeva. Eppure qualcosa aver avviato uno spirito lungo una via che può condurre a Shakespeare e al paradiso perduto». Più tardi arrivò la signora Lind con ulteriori incoraggiamenti. La brava donna aveva abbordato gli scolari davanti al cancello di casa e aveva chiesto loro se la nuova insegnante era simpatica. E tutti hanno detto che eri molto, molto simpatica, Anne. Tranne Timothy Pye, naturalmente. Devo ammettere che lui no. Ha detto che non valevi niente come tutte le maestre femmine. Ecco quanto ha detto Pye. Ma non devi prendertela. «Oh, non me la prendo affatto», rispose Anna tranquillamente. «E ho intenzione di farmi voler bene anche da Anthony Pye. La pazienza e la gentilezza avranno la meglio su di lui». «Beh, non si può mai dire con un Pye», disse prudentemente la signora Lind. «Si comportano sempre al contrario di quanto uno si aspetti, come di solito fanno i sogni». «In quanto a quella Donnell, non la chiamerò mai Donnell, sta sicura. Il nome è Donnell e così è sempre stato. Quella è matta, ecco tutto. Ha un cagnolino che chiama Queenie e che mangia a tavola con la famiglia in un piatto di porcellana». «Avrei timore del giudizio altrui se fossi lei. Thomas dice che il marito, lui sì, che è un uomo sensato e che lavora sodo, ma di buon senso nello scegliersi la moglie. Non ne ha dimostrato per niente».